Questi sono forti, forti, forti, forti. Davvero fortissimi. Third Time Out. Li ho citati poco fa parlando della loro interpretazione di Only You, dei Platters, che è finita nella trasmissione Good Rockin' Tonight della settimana scorsa. E quindi ho voluto proporveli anche qui in versione bluegrass da Letter to Home, un album di una decina di anni fa, e rimaniamo più o meno in quel periodo, non prima di avervi ricordato, uno, che siete all'ascolto di Rock FM e più precisamente Country Skyline, che si ascolta su queste frequenze al martedì ma anche al venerdì, e voglio ricordarvi anche i contatti per dirmene quattro, soltanto due, come fa per esempio Luisa. Uno, mi tira le orecchie perché dovevo mandare in onda un special su Darrell Scott, se ne parla da un po' di tempo in effetti, però dall'altra parte mi fa i complimenti alla trasmissione e questo mi lusinga, cara Luisa. Allora, io in realtà ti stavo aspettando, perché l'ultima volta che ci siamo sentiti è stato forse prima delle vacanze estive, ecco, sì. Quindi adesso che so che sei lì e che in questo momento mi stai ascoltando, posso farti una promessa solenne. Settimana prossima, ladies and gentlemen, la trasmissione, non interamente, perché non ha fatto una discografia Darrell Scott lunghissima, quindi andremo ad ascoltarci una, al massimo due canzoni per disco, e quindi ascolteremo 4-5 canzoni Darrell Scott. Comunque si può pensare di giudicarlo uno special dedicato a questo grande, bravissimo cantautore che abbiamo avuto occasione, il piacere e l'onore di ospitare in Italia ormai un 3-4 anni fa, un concertino che si sono goduti un paio di centinaia di persone. Voi non c'eravate, vero? Ah, vergognatevi. Ah, a proposito, i contatti 338-6171-300 e l'altro, questo è l'SMS, invece l'altro, ovvero l'indirizzo email, scusate. L'indirizzo email è maurizio@radiorockfm.com. Venitemi a trovare sul mio sito personale, sul MySpace, www.myspace.com/, quindi Maurizio Faulisi, lì mi trovate. Parlo di me, ci sono un po' di contatti, un po' di amicizie, un po' di c'è un blog, ovvero le scalette, le playlist di queste trasmissioni, che possono ricevere anche interventi da parte vostra. Quella mi ha fatto schifo, quella invece era bellissima. A quando uno special su Toto Cutugno? Ecco, cose di questo tipo potete scriverle con calma, senza dover correre sulla vostra tastiera del cellulare per potermi mandare SMS durante la trasmissione. Potete farlo con calma. Durante la settimana io vi rispondo, garantito, giuro in giuretta che vi rispondo. come garantito che questo è Willie Nelson. The ways of a gentleman, I've been told, the kind of fellow that wouldn't even harm a flea. But if me and a certain character met, the guy that invented the cigarette, I'd murder that son of a gun in the first degree. It ain't that I don't smoke myself, and I don't reckon they'll hinder your health. I've smoked them all my life, and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same. At a petting party or a poker game, everything's got to stop while you have that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Now, in a game of chance the other night, old Aim Fortune was a-doing me right, and the kings and queens just kept on coming round. And I got a full and I bet it high, but my bluff didn't work on a certain guy. He just kept on raising and laying his money down. And he'd raise me and I'd raise him, and I sweated blood, you gotta sink or swim. And he finally called and couldn't raise the bet. I said, ace is full, pal, how about you? He said, I'll tell you in a minute or two. Right now, I just gotta have another cigarette. Smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Me a date with the cutest little gal in the 50 states, one of them high-bred, uptown, fancy little dames. She said she loved me, and it seemed to me that things were just about like they ought to be, so hand in hand we strolled down Lover's Lane. She was oh so far from a chunk of ice, and our smooching party was going real nice, and so help me, Hannah, I think I'd have been there yet. I give her a kiss and a little squeeze, and she said, would you excuse me, please, but I just gotta have another cigarette. Smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you puff yourself to death, tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, you just gotta have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Questo, signori miei, era Willie Nelson. Una canzone di Merle Travis degli anni 40, mi pare, fine anni 40, primi anni 50, qualcosa del genere. Adesso gli americani fanno una guerra senza quartiere nei confronti del fumo, una volta invece ci dedicavano pure le canzoni. Smoke, smoke, smoke that cigarette, musica swingata. Questo era Willie Nelson, che è stato richiesto, ahimè, non ricordo da chi, comunque un paio di settimane fa un ascoltatore aveva mandato un SMS al solito 338-6171-300. Ma che mi fai ascoltare qualcosa di Willie Nelson? Facile a dirsi Willie Nelson, Willie Nelson. Willie Nelson ha inciso quasi un centinaio di dischi. Non sto mica scherzando, è una roba pazzesca. Willie Nelson è un'icona, è un personaggio importantissimo, fondamentale della country music, che ha toccato per lungo in largo tutti gli angoli di quello che di tutto il panorama della country music, di ciò che si può definire country music e qualcosa anche che difficilmente si può definire country music. Sì, si è avvicinato in maniera pericolosa al pop, si è avvicinato anche a generi musicali, ma insomma sono questi musicisti, una volta che hai fatto 70 dischi, che altro potrai fare? Insomma, sperimenti, anche lo stesso Johnny Cash verso la fine della sua carriera, non a caso è andato a incidere per un'etichetta rock. Vabbè, cosa altro volevo dire? Ah, che qui eravamo a metà degli anni 90 e io voglio fare un salto a ritroso con voi a trovare il Willie Nelson giovanissimo, che si è fatto conoscere a Nashville più che come cantante, con il suo viziaccio di arrivare in ritardo non alle session ma sul ritmo delle canzoni. No, ma quella è la sua caratteristica e forse è grande per questo, anzi sicuramente è grande anche per questo. Ecco, ma era grande già allora, quando era giovanotto, che aveva tutti i capelli e si pettinava da bravo ragazzo con la cravattina e mica da redneck e da hippie. come nel resto della sua vita, a partire dagli anni 60, 65, 60, fine anni 60 in poi. Ecco, qui siamo nel 62, famoso e lo è diventato come autore piuttosto che come cantante interprete, perché ha scritto alcune delle canzoni più belle della storia della country music. Pensate che questa l'ha scritta giovanissimo e l'ha incisa in un album uscito il 4 settembre del 1962. Dove eravate voi nel 1962 quando Willie Nelson entrava in studio per incidere Crazy? Oh, l'avete già sentita forse nella versione di Patsy Cline? Eh già. I'm crazy. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling so blue. I knew that you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Oh, crazy! Caro Maurizio, sto passando un periodo schifoso, ti chiedo solamente di mettermi un pezzo grintoso per farmi ballare un po'. Ecco, questo è un pezzo che si balla in due, che ha fatto nascere tanti figli. Non è un pezzo grintoso, arriverà presto, Ade, non ti preoccupare, su con la vita. Ah, che voce, che uomo, questo cantante si chiama Willie Nelson. Well, it's cloudy in the morning. E vai col blues. Gonna be raining in the afternoon. Rainy day blues. I said it's cloudy in the morning. Willie Nelson. Gonna be raining in the afternoon. And if you don't like this rainy weather, you better pack your bags and move. But if you're running from it, brother, the only road that I can see, if you're running from it, brother, the only road that I can see, is the road that leads to nowhere, and nowhere is a fool like me. Keep a falling round my window pane. Rain, keep a falling round my window pane. Ain't never seen so much rainy weather. Guess I'll never see the sun again. State, stai ballando? Io sì. E vai col blues, Rainy Day Blues, Willie Nelson a Country Skyline. Better save your dimes and nickels, better save them for a rainy day. Better save your dimes and nickels, save them for a rainy day. It ain't gonna keep the rains from falling, but at least you know you've paid your way. I said rain keep a falling, falling round my window pane. Ain't never seen so much rainy weather, guess I'll never see the sun again. Rainy Day Blues, Rainy Day Blues, tre canzoni, mica una, mica due, addirittura tre canzoni per Willie Nelson, anche questo richiesto da un ascoltatore al 338-6171-300. Era un bel blusaccio che si poteva, sì, ballare. Non era grintoso? No, non abbastanza. Questi invece sì. Brooks and Dunn, Boots Good Boogie. Out in the country past the city limit sign, where there's a honky-tonk near the county line. The joint starts jumping every night when the sun goes down. They got whiskey, women, music and smoke. It's where all the cowboy folk go to Boots Good Boogie. I got a good job, I work hard for my money. When it's quitting time, I hit the door running. I fire up my pickup truck and let the horses run. I go flying down that highway to that hideaway, stuck out in the woods to do the Boots Good Boogie. Yeah, you go do-si-do, come on baby, let's go Boots. Oh, Cadillac, blackjack, baby, meet me out back, we're gonna boogie. Oh, get down, turn around, go to town, Boots Good Boogie. Son, what'll it be? I want a shot of that redhead yonder looking at me. The dance floor's hopping and it's hotter than the 4th of July. I see outlaws and laws, crooks and straights, all out making it shake, doing the Boots Good Boogie. Questi due erano Brooks and Dunn, il duo country che ha venduto di più nella intera storia della country music, e di duetti vi assicuro, ma lo sapete anche voi, La country music ne ha sfornati in gran quantità a partire già dagli anni 20 e 30. È una tradizione quella, duetti, moglie e marito, fratello e sorella, fratelli, sorelle, figlio e mamma, papà e figlia. No, ma davvero, davvero. O comunque... due voci che, sulle quali si basano praticamente le armonie del country, quindi voce lead, voce tenore che sta sopra, e nella tradizione si sono inseriti anche questi Brooks and Dunn negli anni 90, a partire dagli anni 90, che hanno fatto un grande, grandissimo, enorme successo con la Arista Records. Questi non erano richiesti, era richiesto Alan Jackson, era richiesto Willie Nelson, qualcuno ha chiesto lei, sì, uno swing, ma settimana prossima, carissima. Ecco, una richiesta, probabilmente volevano mettermi alla prova. E vinco io, perché sono riuscito a trovare, ho dovuto cercare un po', perché Goldie Hill, insomma, anche... nella mia discografia ho dovuto spulciare quella. Siamo nel 1952, voi che siete abituati al suono pompatissimo degli anni 90 e 2000, ascoltate bene, perché il suono del 52 era decisamente più scarno, più legato alla tradizione, insomma. Questa Goldie Hill ce l'ascoltiamo nel 1952 con una canzone che si intitola Let Stars Get in My Eyes. E Goldie Hill è una delle reginette di allora della country music di Nashville, e questa è stata richiesta. Anche questo pezzo è stato richiesto al 338-6171-300. But give to him my love so dear. Now he's the only one I'm thinking of. Too many miles, too many days, too many nights I was alone. His love was so grand when he held my hand. You know how the moonlight lures you on. Could I do but give to him my love so dear? Now he's the only one I'm thinking of. Ed era Goldie Hill nel lontano 1952. Sì, Goldie Hill, abbiamo ascoltato anche lei. Pensate, arrivano richieste di questo tipo a Country Skyline. Naturalmente mi gratificano molto, vuol dire che lì fuori siete proprio forti, la sapete lunga. Bene, bene, bene, bene. Abbiamo tempo ancora per un paio di brani, davvero soltanto due. Il prossimo è brevissimo, un tradizionale, uno strumentale, un pezzo che ascoltiamo per chitarra, la chitarra del magico Beppe Gambetta, il nostro amico Beppe Gambetta. che mi ha chiamato oggi dalla Pennsylvania. Non vi sto raccontando una bugia, spero che abbia un telefono che gli permetta di spendere poco. Comunque mi ha chiamato per ricordarmi una cosa, anzi per informarmi di una cosa e pregarmi di comunicarvela. Lui suonerà il 27, quindi fra pochi giorni sta per tornare a casa. Ecco, il 27 di ottobre suonerà a Novara, quindi se abitate dalle parti di Milano, comunque si può fare, ecco, si può fare. Novara non è lontanissimo. Il venerdì 27, quindi fra un paio di giorni, si esibirà al Teatro Piccola Coccia, via Fratelli Rosselli 47. All'interno di una rassegna che si chiama, che è stata intitolata Chitarre e Autori. Quindi Beppe Gambetta, il nostro Beppe Gambetta, il bravissimo chitarrista flat picking Beppe Gambetta, lo potrete ascoltare a Novara venerdì 27, quindi fra un paio di giorni al Teatro Coccia. Il numero telefonico per prenotare i vostri posti è allo 0321 620400. 0321 620400. Non conoscete Beppe Gambetta? No, davvero, mi state dicendo che non conoscete Beppe Gambetta? Questa è la chitarra di Beppe Gambetta. Le chitarre quest'uomo qui, eh? Suona una bella Taylor, e se volete ascoltare la sua Taylor andate fino a Novara venerdì 27 al Teatro Coccia, Piccola Coccia, Piccolo Coccia. Il teatro credo che sia uno dei teatri più importanti di Novara, davvero. Via Fratelli Rosselli 47, alle ore 21. Chitarre ed autore è una rassegna che prevede la presenza anche di chitarristi internazionali nei prossimi giorni, prossime settimane. Bene, mi rimane di mandare in onda uno swing, ma questo lo farò settimana prossima, e non sono riuscito a inserire, in realtà me lo sono quasi scordato e voglio davvero scusarmi con colui che mi ha fatto la richiesta. Ronnie Millsap, che non è uno dei miei preferiti, ma è certamente un bravissimo artista country, un grande professionista legato agli anni 70 particolarmente. Ho qualcosa da farvi ascoltare, lo farò settimana prossima, insieme allo swing, insieme allo special di Darrell Scott. E voglio chiudere così come ho aperto, perché avevo promesso non uno ma addirittura due brani di Alan Jackson. Bene, ringrazio davvero tutti quanti per aver seguito anche questa volta Country Skyline, il vostro appuntamento settimanale con la country music e la roots music. Mi raggiungete al 338 6171300 oppure via email maurizio@radiorockfm.com, oppure venitemi a trovare sul mio spazio www.myspace.com/maurizio Faurisi. E adesso vi lascio in meravigliosa compagnia. E vai! Non va? Don't rock the jukebox. Alan Jackson. Wanna hear some Jones? 'Cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox. Play me a country song. Before you drop that quarter, keep one thing in mind. You got a heartbroken hillbilly standing here in line. I've been down and lonely ever since she left. Before you punch that number, could I make one request? Don't rock the jukebox. I wanna hear some Jones. 'Cause my heart ain't ready for the road. Ain't got nothing against rock and roll, but when your heart's been broken and you need a song that's slow, there ain't nothing like a steel guitar drown a memory. Before you spend your money, baby, play a song for me. And don't rock the jukebox. Wanna hear George Jones? 'Cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking since my baby's gone. So don't rock the jukebox. Play me a country song. Yeah, don't rock the jukebox. Play me a country song.